Mix 24, la storia. Buongiorno e benvenuti a Mix 24. Oggi cercheremo di tracciare un ritratto di Don Giussani, fondatore di Comunione e Liberazione, a 10 anni dalla morte, il sacerdote che volle riportare Gesù e il suo insegnamento all'interno delle scuole italiane in mezzo agli studenti. Raccontiamo Don Giussani attraverso il ricordo di chi lo ha conosciuto e ha studiato con lui, ritornando quindi al liceo Berchet, dove nel 1954 nasce il primo nucleo del movimento, Gioventù Studentesca, e dove ancora oggi, all'uscita di scuola, i ragazzi sanno tutti chi è Don Giussani. Don Giussani, pensiamo a dire dove nasce. Nasce a Desio, nasce nel 1922, il 15 di ottobre, e sua mamma è cattolica, credente praticante, una donna semplice. Invece suo padre non è cattolico, è socialista e era molto appassionato di musica, no? E ha trasmesso questa passione al figlio. A 11 anni entra in seminario e lì viene a contatto con una serie di persone, tra cui Colombo, che trasmette la passione per Leopardi. Si specializza in teologia orientale e in teologia protestante americana e al seminario fonda lo Studium Christi con alcuni suoi compagni di seminario. Era successo che in un viaggio da Milano a Rimini, sul treno avevo incontrato un gruppo di giovani ed era nata una discussione spontanea in cui i giovani provavano disprezzo e indifferenza nei confronti della Chiesa. Io mi ricordo di un episodio che ha raccontato della sua prima ora di lezione al Berchet, che uno studente appena entrato gli aveva detto: guardi, non venga qui a dirci tante storie perché tanto sappiamo che fede e ragione sono due cose che totalmente separate. E lì Don Giussani aveva cominciato proprio a discutere proprio su quello, mettendo in crisi tutta la classe, arrivando anche a stabilire un colloquio con il professore di filosofia, che era sulla stessa più o meno lunghezza d'onda dei ragazzi. Intorno a Don Giussani si forma immediatamente un piccolo gruppo di studenti che cresce via via. Massimo Bernardini per noi ha riunito in un'aula del Berchet alcuni degli ex allievi di Don Giussani per provare a rievocare insieme l'originalità della sua personalità e del suo metodo. Cominciamo a dire chi siete. Nome, cognome, professione. Lorenzo Strickliver, sono un insegnante universitario, in prima liceo ero nel 60-61. Tiziana Maiolo, giornalista, sono stata nella sezione C negli anni tra il 58, 60, 61. Massimo Fini, giornalista, sezione D, 60-61. Rosilde Craxi, prima C, anni 56-59. Più veloci. Roberto Barbieri, pubblicista, prima liceo D, 64. Don Luigi Negri, docente universitario, prima E, 1957. Claudio Risè, psicoanalista e giornalista, sezione A, 56-59. Giulio Giorello, docente universitario, prima A, 1960-61. Carlo Fontana, prima F, 64. Giuliano Bisapia, avvocato, ho avuto come professore Don Luigi Giussani negli anni 63-64 in prima e seconda liceo, sezione A. Dall'esperienza del Berchet nasce la Gioventù Studentesca, il primo nucleo di Comunione e Liberazione, un movimento che nelle parole di Papa Benedetto XVI testimonia la bellezza di essere cristiani in un'epoca in cui andava diffondendosi l'opinione che il cristianesimo fosse qualcosa di faticoso e di opprimente da vivere. Ma sentiamo un frammento di un intervento di Don Giussani. L'obiezione non è l'essere vecchio, l'obiezione è l'essere acerbi, cioè giovani. In questo senso il cristianesimo ripulisce l'equivoco che c'è anche nella scrittura quando il profeta dice: rendete onore a Dio nel tempo della vostra gioventù, prima che vengano gli anni tristi in cui uno dice non fosse mai nato. Nel cristianesimo è esattamente l'inverso: quanto più uno cresce, tanto più ringiovanisce, tanto più si rende giovane. È il gusto del vero, è il dialogo col vero. Negli ultimi 3 anni per me sono state più dense che neanche gli ultimi 30 anni. Presenza fortissima nella storia della Chiesa del secondo dopoguerra. Nel 1982, con un decreto del presidente del Pontificio Consiglio per i Laici, la Fraternità di Comunione e Liberazione viene riconosciuta formalmente e dichiarata associazione di diritto pontificio. Papa Giovanni Paolo II ne riconoscerà sempre l'importanza. Non permettete mai che nella vostra partecipazione alberghi il tarlo dell'abitudine, della routine, della vecchiaia. Questo non minaccia. Come diceva Monsignor Giussani, no? Sono giovani, sono alcuni meno giovani, il più vecchio sarebbe il Papa. Ma anche lui, come tutti i più anziani, no? Anziano lo è, anche secondo l'espressione di San Pietro. Allora anche lui cerca di essere giovane, giovane di spirito. Nel 2004, in occasione dei 50 anni di comunione e liberazione, Papa Giovanni Paolo II scriverà che l'intuizione pedagogica del movimento sta nel riproporre in modo affascinante e in sintonia con la cultura contemporanea l'avvenimento cristiano, percepito come fonte di nuovi valori capaci di orientare l'intera esistenza. Ancora le parole di Monsignor Giussani. La grazia di Gesù per me è diventata l'esperienza di una fede che nella Santa Chiesa, cioè nel popolo cristiano, si è svelata come una chiamata ad alimentare il nuovo Israele di Dio. Ho visto il tuo popolo con grandissima gioia riconoscere l'esistenza come offerta a te, continua la preghiera della liturgia. Ho visto così, dico io, succedere il formarsi di un popolo in nome di Cristo. Tutto in me è diventato veramente più religioso, fino alla coscienza tesa a scoprire che Dio è tutto in tutto. L'esistenza si esprime come ultimo ideale nella mendicanza. Il vero protagonista della storia è il mendicante, cioè Cristo, mendicante del cuore dell'uomo, e il cuore dell'uomo mendicante di Cristo. Comunione e liberazione, nelle parole di Don Giussani, è nata dalla necessità di ritornare agli aspetti elementari del cristianesimo. Centrale per lui è l'educazione dei giovani. Mix 24, la storia. Fin dalle prime ore di scuola ho sempre detto: non sono qui perché voi riteniate come vostre le idee che vi do io, ma per insegnarvi un metodo vero per giudicare le cose che vi dirò, ha scritto Don Giussani. E le cose che io vi dirò sono un'esperienza che è l'esito di un lungo passato, 2000 anni. Bentornati a Mix 24, continuiamo il nostro racconto della figura del fondatore di Comunione e Liberazione attraverso le parole degli ex allievi del Bercé di Milano che lo hanno conosciuto e vissuto. Così Giuliano Pisapia. Beh, io ho questo ricordo molto preciso. Prima volta che entra in classe Don Giussani, Don Giussa, e chiaramente ora di religione, tutti parlavano tra di loro, nessuno dava retta al professore di religione, e lui allora ha iniziato subito con una provocazione e ha chiesto a tutti noi: ma voi ritenete giusto che una famiglia cattolica dia un'educazione cattolica ai propri figli? E chiaramente subito c'è stata la reazione di alcuni di noi che gli hanno posto una domanda analoga: ma lei, professore, ritiene giusto che una famiglia comunista dia un'educazione comunista ai propri figli? E lui ha detto sì, e adesso vi spiego perché. E devo dire la verità che in quel momento ci ha conquistato. Uno poteva condividere o meno quello che diceva, ma sicuramente le sue ore di lezione erano le ore in cui stavamo a bocca aperta ad ascoltare. Un uomo carismatico, secondo il ricordo di Giuliano Pisapia, oggi sindaco di Milano. Un uomo, Don Giussani, che a questa parola carisma aveva dato una lettura assolutamente cattolica. Carisma, dono dello spirito dato a una persona in un determinato contesto storico affinché quell'individuo dia inizio a un'esperienza di fede che possa risultare in qualche modo utile alla vita della Chiesa. Il carisma, dice Don Giussani, ha un carattere esistenziale. Esso rende più convincente, più persuasivo, più abbordabile il messaggio cristiano. Così lo ricordano Giuseppe Zola e Don Luigi Negri, allievi di Don Giussani. La gonna di prete si svolazzava, tanto entrava con desiderio frettoloso di annunciare quel che voleva annunciare, di parlare con noi. E ricordo la passione con cui tutti partecipavamo alla lezione. eravamo abituati prima di allora a lezioni di religione un po' ridicole. Con lui non si poteva scherzare, era una cosa seria, ci impegnava, dettava quello che prima spiegava, lo dettava sinteticamente, e su quello si aprirono delle discussioni affascinanti, discussioni molto, molto grandi. Sì, lui era un grande seduttore, nella mia ottica c'era chi lo accettava, cioè chi lo sentiva. Scusi, lei era fra i sedotti o no? Tanto no, per capire. Assolutamente no. Cioè, mi le ragioni, scusi, di questa... Istintivamente non mi piaceva questa retorica che avevano loro, l'andare in bassa. Lui diceva sempre: non voglio convincervi di nessun contenuto, voglio abituarvi a insegnarvi un metodo, quello del confronto fra le proposte, le mie e quelle altre che troverete, e la vostra esperienza umana. Quindi a me è servito molto, anche proprio sul piano culturale, intellettuale, questo appello alla intelligenza come capacità di confronto critico con le proposte, non invece un'intelligenza chiusa in sé che analizza gli oggetti o analizza le proprie reazioni. A me questo pare che sia una lezione che è andata ben oltre la differenza fra credenti e non credenti, cattolici e non cattolici. Ma Don Giussani, proprio per il suo infinito carisma, è una personalità che divide. Così Lorenzo Strickleavers, allievo di Don Giussani Alberché. Lei stava intervenendo. Secondo me era una provocazione continua. Io ero un suo avversario, cioè eravamo proprio divisi Alberché, erano due avversario. Partiti, lui era il capo, il leader, oltre che il professore di religione, era il leader del partito dei GSini, come si chiamavano. Dei GSini. Allora, Gioventù Studentesca. Noi, nucleo di comunione, poi è cambiato, è diventata Comunione Liberazione. Noi eravamo invece i radical socialisti, gli avversari, ma devo dire, la sua lezione era veramente una provocazione. Aveva questa capacità di suscitare reazione, di mettere in gioco. Cioè, era partita alla pari, perché lui era molto fascinoso, poi predicava in piedi. Un predicatore per i giornalisti Massimo Fini e Tiziana Maiolo. In realtà all'epoca i giovani non è che fossero molto politicizzati, la gran parte, adesso forse Strickleavers, era già radical socialista, io ad esempio non ero niente, eppure ero molto recalcitrante a farmi sedurre. Come diceva Massimo Fini, lui era un grande seduttore, io ricordo dei particolari. Ad esempio, lui aveva questa civetteria continua di dire: la mia voce è la prima parte di me che se ne sta andando. E tutti noi ci immaginavamo, no, questa immagine un po' leopardiana. Una delle figure importanti nella vita di Don Giussani è quella del poeta Giacomo Leopardi. Così lo descrive lui stesso in alcune pagine autobiografiche. Mi ricordo quando a 13 anni lessi per la prima volta la poesia Alla sua donna di Leopardi, che è un anticipo del mistero dell'incarnazione, perché l'ateo Leopardi, in quella poesia, espresse per me meravigliosamente l'annuncio e il messaggio della prima pagina di Giovanni Evangelista: il Verbo si è fatto carne. Nel mio terzo ginnasio, quando ero in seminario, quando per un mese intero, avendo trovato una certa poesia la sera di festa, per tutto il mese ho letto solo Leopardi, studiando tutto a memoria, e da allora ogni giorno ridicevo l'uno o l'altro dei suoi canti a memoria, fino a quando trovai quel canto che resi normale parola come ringraziamento della Santa Comunione. Tanto che quando lo dissi questo a un raduno di preti, avevo già cominciato a GS, il cardinale Giovanni Colombo, che era lì vicino, ma se l'avessi saputo non te l'avrei fatto prete. Infatti sentiremo la poesia poi. Meno male che non l'ha saputo. Sopra il ritratto di una bella donna scolpito sul monumento sepolcrale della medesima. C'è qualcuno che ha studiato a memoria? Però devo leggere io. Col labbro ond'alto par come d'urna piena a traboccare il piacere, quel collo cinto già di desio, quella amorosa mano che spesso ove fu porta, sentì gelida far la manca strinse, e il seno, onde la gente visibilmente di pallor si tinse, furo. Alcun tempo, or fango ed ossa sei. La vista vituperosa e trista un sasso asconde. Così riduce il fato qual sembianza fra noi parve più viva immagine del cielo. Il segno più grande del cielo, della felicità, dell'eterno, è il volto della donna. Misterio eterno dell'essere nostro. Ricordate questa frase, perché Leopardia è qui, non nel no, nella negazione che se, per cui i miei insegnanti del seminario proibirono di, che leggessimo Leopardi. Un insegnante di religione che usa i testi di Leopardi in un modo forse insolito, che divide e spiazza, secondo Carlo Fontana e Paolo Schumé. Io, socialista, riformista, probabilmente ero molto chiaro nelle mie idee, e questo volere di questo prete, che appunto voleva in qualche modo stupire e spiazzarti, mi dà la sensazione di voler penetrarti, di impossessarsi di qualcosa di tuo, e questo mi portava a respingerlo. La seduzione non era limitata alla persona, e anzi in questo sta forse anche il fatto di essere un vero insegnante, quindi bisogna vedere se gli insegnanti sono questi o sono altri, perché comunque è uno che indica una strada in qualche modo, o che il cui tentativo era quello di indicare una strada. La prova sta, perché per esempio nella memoria per me il ricordo di quegli anni è un'origine, ma un'origine che è ben spiegata dalla storia che è avvenuta, dico per me, quindi l'indicare una strada è in qualche modo dell'insegnante. Una personalità complessa, quella di Don Giussani, che punta ad arrivare al cuore dei ragazzi, secondo Claudio Risè, scrittore e giornalista, e per Massimo Fini. È vero che Giussani voleva qualcosa da noi e in qualche modo entrava in modo invadente, non solo nella classe ma nelle nostre vite, perché voleva, e questo era molto chiaro, il nostro cuore. Questo era chiarissimo, malgrado è vero che poi c'era tutto un confronto critico, intellettuale, ma lui voleva il nostro cuore. Questo era assolutamente chiaro. Mi ha anticipato Risè, usava Leopardi perché era una delle chiavi, come a livello molto più basso, parlava un linguaggio, diceva anche le parolacce, cosa che naturalmente faceva impressione perché lui faceva il prete disinvolto. Cioè lei dice era un gran furbacchione, ci sta dicendo? No, lui è totalmente in buona fede, era un corruttore di un corruttore, sì, è grossa la parola. Un corruttore di menti non ancora formate, insomma. Diffidenza, irritazione, sono questi i sentimenti che spesso suscita Don Giussani. Insomma, un maestro amato ma anche molto contestato, un maestro fermamente convinto dell'importanza dell'educazione e della dimensione culturale, dalla quale scaturirà una dimensione politica. Infatti, nella concezione di comunione e liberazione, l'azione politica è uno dei campi in cui un cristiano è chiamato con maggiore responsabilità e generosità. Dalle file del movimento, infatti, sono uscite personalità impegnate in vario modo e con vari risultati a diversi livelli nella politica, da Pier Ferdinando Casini a Roberto Formigoni, da Maurizio Lupi a Mario Mauro, solo per fare alcuni nomi. Su Radio 24 stiamo facendo un ritratto di Don Giussani attraverso le voci dei suoi allievi. Mix 24, la storia. Bentornati a Mix 24. Molte sono le battaglie che hanno coinvolto il movimento di comunione e di liberazione, come quelle per la libertà di educazione, per la parità tra scuole statali e non statali, o quella più in generale per il rispetto del principio di sussidiarietà, che mette al centro le persone e i loro bisogni. Ma torniamo agli ex allievi del Bercè di Milano e di Don Giussani. Paolo Pillitteri, ex sindaco di Milano. Io sono arrivato al Bercè provenendo da 4 anni di collegio salesiano a Sondrio, Piena Vandea. Naturalmente, Ipercattolico. Vandea nel senso buono del termine. Naturalmente ero cattolico allora, lo sono anche adesso, e anche socialista riformista. Ricordo perfettamente l'impatto che io ho avuto con Don Giussani fin dal primo giorno. Mi accorsi che parlava, oltre che un linguaggio, comunicava concetti che io facevo fatica a capire, perché ero abituato a quelli semplicissimi dei salesiani, a quelli di Don Bosco, a quelli di Domenico Savio. Per me fu veramente un salto qualitativo, e anche dava un piccolo senso di vertigini e anche un po' di irritazione, perché mi domandavo, ma sono così indietro io, possibile che non riesco a essere convinto, no? E ancora Giuliano Pisapia ricorda come il metodo educativo di Don Giussani fosse tutto centrato sull'esperienza condivisa. Attraverso Gioventù Studentesca attirava gli studenti con strumenti completamente diversi, ad esempio i tornei di calcio, ad esempio le gite in montagna, cose assolutamente positive, condivisibili, non le vedo come uno strumento negativo. Ma il modo per attirare i giovani non era la fede, non era il ragionare, ma era il gioco, era la gita, era il divertimento, per poi passare a cose che io ritengo più serie, ad esempio l'andare in bassa, che per me è stato molto utile, pur non essendo gestito, non sono andato due volte, ho avuto rispetto. Così andare in bassa? Andare in bassa significava andare in gita la domenica nelle paesi più poveri, vicino a Lodi, della periferia di Milano. Devo dire la verità che a me personalmente ha fatto capire la povertà, ha fatto provare la solidarietà, che poi io ho portato lasciando la fede in un'altra parte. I primi gessini si recavano in una zona della periferia di Milano, detta La Bassa, per fare compagnia a dei ragazzini di famiglie indigenti. Oggi le forme di solidarietà proposte dal movimento di comunione e liberazione sono le più diverse. Impegnarsi in oratorio, fare visita agli anziani in ospizio, aiutare i ragazzini più bisognosi a studiare, condividere situazioni difficili come l'assistenza ai malati terminali e ancora aiutare a cercare lavoro. Così Giancarlo Cesano, uno tra gli storici leader di Comunione e Liberazione. Don Giussani educa a riconoscere Cristo presente. E come fa? Dice la sua esperienza di questa vicinanza, di questa comunione con Cristo. Cioè, in un certo qual senso, rifà il cristianesimo, lo rifà da capo, lo rifà adesso, cioè lo rivive adesso, lo rende vivo adesso. E questa è proprio la sua formidabile caratteristica, per esempio per la mia esperienza personale, che quello che per me era morto, il cristianesimo, l'educazione cristiana che avevo avuto, lui l'ha reso vivo. Don Giussani è una figura capace di comunicare e di confrontarsi con tutti, perché alla base dell'esperienza cristiana, secondo lui, c'è la capacità di abbracciare anche chi è più lontano e diverso. Perché l'aver incontrato la verità, per grazia e non per merito proprio, permette di riconoscere ogni barlume di vero e di valorizzarlo. Testimonianza di questo viene proprio da questa intervista fatta a uno dei più importanti attori italiani, Franco Branciaroli. È stato Testore che mi ha portato da Don Giussani. E lì conobbi questa persona, tra parenti, che arrivò col whisky, cioè bevendo whisky, mi ricordo, bevendo parecchio whisky, no? E fui colpito perché, se posso sintetizzare, Don Giussani mi convinse che si può essere ancora cattolici, perché sentì calata nella vita questa umanità, non religione, questa umanità. Poi non è una religione. Se è vero che la Chiesa ha sempre seppellito gli attori in terra sconsacrata, penso che Giussani non l'avrebbe mai fatto, proprio perché Giussani è uno dei pochissimi, perlomeno che abbia conosciuto, sacerdoti che amano il teatro. Tant'è che nei suoi scritti il teatro è spesso citato, Ibsen per esempio, Giussani ama, sempre citato, Brand. Cioè, c'era una bella cosa che dice, adesso mi ricordo, che i veri meritevoli dovrebbero avere come premio una doppia vita, no? I veri meritevoli, ecco. Credo che Don Giussani meriti una doppia vita. La vivacità culturale di Comunione e Liberazione nasce dalla volontà di verificare come la fede cristiana offra un criterio più fecondo e completo per leggere la realtà. Con questo scopo nascono in Italia e all'estero centinaia di centri culturali, decine di scuole libere, oltre a case editrici, attività editoriali e giornalistiche. Vengono promossi istituti e fondazioni di livello accademico, convegni internazionali come l'annuale meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini, che coinvolgono i nomi più illustri della cultura internazionale e in cui si dibatte di temi più scottanti e autentici della contemporaneità. E così Francesco Cossiga racconta Don Giussani. Lui è riuscito a mettere insieme ragazzi e ragazze di tutto il mondo in un momento difficile. In realtà lui è stato l'alternativa al 68, ha fatto il 68 dentro la chiesa, in un modo libero. Ecco, c'è questo di bello, che come una liberazione è una cosa libera, che lui propone non come talvolta pericolosamente fanno altri movimenti, non come l'unica via della salvezza o la via privilegiata, ma come una via che tutti possono in un qualche modo abbracciare. Io sono anziano e non so se la cosa la vedrò, ma io non dubito assolutamente che lui, essendo stato un grande testimone insieme religioso e umano del nostro tempo, il giorno sarà santo. Per Cossiga, Giussani è quindi destinato a diventare santo, capace di unire uomini e donne in tutto il mondo. Ecco alcune testimonianze di persone che testimoniano il messaggio di comunione e liberazione fuori dai confini italiani, un pensiero che viaggia in oltre 74 paesi diversi. Ho incontrato il movimento nel college di Cambridge nell'86 e la prima volta che ho incontrato Giussani mi ha guardato e mi ha trattato come se fossi la persona più importante per lui. Era l'anno 1983 in che... Era il 1983. Io e un mio amico eravamo in dura lotta contro il regime di Pinochet. Incontrando Don Giussani gli dicevamo che il nostro compito era lottare contro il potere. Ma lui ci disse che prima che una lotta contro il potere doveva essere la lotta contro ciò che ci legava, i limiti nostri e poi quelli della struttura. Alcuni amici hanno portato Don Giussani a casa mia, nella mia famiglia. Lui mi ha aiutato a mettermi come persona davanti a tutto. Oltre a insegnare, ora lavoro insieme ai miei amici nelle favelas. Costruiamo orfanotrofi per i bambini che non hanno niente e riusciamo a dargli una vita nuova. Il carisma del Giussani, per me che lavoro coi malati di AIDS, è uno che viene e ti dice non piangere, perché la tua vita non è definita da una malattia, da una pallottola, da tua mamma che muore. È il carisma di Don Giussani che continua ad ispirare uno dei movimenti più fervidi e seguiti del cattolicesimo contemporaneo. Così l'arcivescovo di Milano, Angelo Scola. Don Giussani è un uomo fuori dal comune. Cioè, io reputo che sia in un certo senso il Don Bosco dei nostri tempi. Cioè, è un genio dell'educazione cristiana, ma dell'educazione. Ha anche i connotati, secondo me, e sono certo che in futuro gli saranno riconosciuti, di un grande padre della Chiesa, nel senso nobile della parola. Centinaia di migliaia di persone hanno trovato una possibilità di seguire entusiasticamente Cristo attraverso di lui. Quindi è comprensibile che sia un uomo indominabile, secondo schemi di qualunque tipo natura, però intendiamoci, io ho imparato da Don Giussani un rispetto e un senso e una passione, un amore per il grande tronco istituzionale della Chiesa che non ho imparato da nessun'altra parte, proprio perché è un uomo assolutamente libero e imprevedibile, è realmente profondamente obbediente e profondamente innovativo. Questo è proprio di tutti i grandi geni del cristianesimo. Mix 24. la storia. Alberto Savorana, allievo di Don Giussani e autore del libro Vita di Don Giussani, edito Rizzoli, sono ben 1350 pagine dedicate al fondatore di Comunione e Liberazione. Cosa troviamo in questo libro che non è stato già scritto su Don Giussani? Troviamo la vita di un uomo che all'età di 13 anni nel seminario di Milano va in crisi perché scopre le domande più profonde del suo cuore di verità, giustizia, bellezza, felicità e non trova altro amico all'altezza di questo suo desiderio che Giacomo Leopardi, di cui legge tutta l'opera poetica in un'estate. E troviamo anche un giovane di 15-16 anni che sente il proprio professore di prima liceo, Don Gaetano Corti, leggere e spiegare il prologo del Vangelo di San Giovanni che racconta del mistero della incarnazione di Dio in Cristo e che scopre così il bel giorno, dirà Don Giussani, che da allora l'istante, cioè le circostanze della vita, non fu più banalità per me. Tutto per lui divenne interessante e oggetto di una curiosità che lo ha accompagnato per tutta la vita. Quindi chi è il maestro di Don Giussani? Il maestro può essere identificato in un insieme di persone. Non ce n'è uno su tutti? No, ce n'è uno a cui Don Giussani era particolarmente affezionato, che è appunto Don Gaetano Corti, che quando lo incontrava molti anni dopo nei chiostri dell'Università Cattolica lo salutava come ecco il mio maestro. Ma maestri furono anche Giovanni Colombo, il futuro arcivescovo di Milano, Carlo Colombo, il teologo di Paolo VI, Carlo Figini, grande protagonista della teologia del Novecento, e prima di loro maestri furono il papà e la mamma, perché Don Giussani fin da piccolo ha imparato il senso degli altri, il senso del mondo, l'interesse per la bellezza, per la musica e per la realtà attraverso il papà e la mamma che lo hanno educato, il papà di tradizione laica socialista, la mamma fervente cattolica, lo hanno educato al gusto della ragione e della realtà e la scoperta che la fede è interessante per la vita dell'uomo. Qual è il carisma speciale di Don Giussani? Se dovessi sintetizzarlo con un'espressione, con una parola, è il carisma dell'esperienza. E cioè, Don Giussani ha scommesso tutto sul fatto che la fede cristiana, il cristianesimo, diventa incomprensibile se i bisogni dell'uomo non sono presi sul serio. Perché per Don Giussani la fede, Cristo e il cristianesimo non sono qualcosa che si appiccica dall'esterno alla vita, ma hanno la pretesa di essere la risposta alla situazione umana esistenziale di un uomo che ha urgenza di vivere, urgenza di trovare risposta ai bisogni della sua esistenza. Questo credo, a 9 anni dalla sua morte, sia ancora l'attualità del suo carisma. E Don Giussani ha cercato di insegnare questo innanzitutto non con dei libri o con dei discorsi, ma mettendo a disposizione la propria esperienza, invitando fin da quando nel 54 andò a insegnare al liceo classico Berché di Milano, invitando i ragazzi a verificare se quello che lui proponeva era utile per la loro vita, per il loro essere studenti e giovani degli anni 50. Non ha mai fatto appello alla propria autorità per convincere gli altri delle proprie idee. Sì, lo abbiamo raccontato. Ecco, ma cosa è stato secondo lei determinante, forse lo abbiamo già detto, però proprio determinante per la sua vocazione? Quello che abbiamo accennato all'inizio. Don Giussani ricordava, se io non avessi incontrato il professor Gaetano Corti, se io non avessi ascoltato le lezioni di Don Giovanni Colombo, per me il cristianesimo e la Chiesa e Cristo sarebbero rimasti oggetto di una ispirazione devota e religiosa, ma qualcosa di astratto. Diciamo che per Don Giussani è stato decisivo una serie di incontri che gli hanno mostrato, come dire, la pertinenza, l'utilità della proposta cristiana per la sua vita di giovane, di adulto e di anziano malato. Su che cosa questa figura continua a dividere? Io credo che un motivo di divisione sia la lotta accanita che Don Giussani ha sempre vissuto, ma innanzitutto nei confronti del movimento che era nato da lui, prima Gioventù Studentesca e poi CL, la lotta a ogni riduzione dell'esperienza cristiana a qualcosa di organizzativo, associazionistico, strutturale nel senso di rinchiudere la vita in forme consolidate e definitive. Per Don Giussani il cristianesimo è sempre una vita e una vita accade ora. Sì, ma quindi cos'è che, Cioè, che cosa criticano esattamente? Credo che criticassero, e qualcuno critica ancora, come dire, la semplicità dell'annuncio cristiano, che non è innanzitutto legato a degli schemi, a delle regole consolidate, ma è legato a una vita, e una vita è integrale, prende l'uomo nella sua totalità. Forse qualcuno ancora potrebbe rivolgere a Don Giussani l'accusa di integralismo che gli rivolgevano negli anni 70, ma proprio a motivo della proposta di Don Giussani, che pretende di essere per l'uomo nella sua totalità, quindi per l'uomo che desidera, che lavora, che soffre, che gioisce, che attende. Come si sta ricostruendo con Don Carron il movimento? Più che una ricostruzione, io la vedo anche dall'interno della mia esperienza personale, perché io sono parte di questo movimento, come la sottolineatura dei fattori essenziali dell'esperienza cristiana, così come in Don Giussani si sono formulati e così come Don Carron, mi pare, in questi anni di responsabilità assunta per volontà di Don Giussani della guida in CL, diciamo, come una sottolineatura di ciò che è essenziale nell'esperienza cristiana. In questo mi sorprende, da una parte, la sua volontà di essere fedele al carisma di Don Giussani, dall'altra parte l'accanito desiderio di seguire Papa Francesco, che proprio in questo anno, in questo primo anno di pontificato, non si è mai stancato di richiamare i cristiani all'essenziale, addirittura sfidando chiunque a rendere visibile l'essenziale, cioè Gesù Cristo. Cioè, ecco, infatti, qual è il rapporto tra Don Carron e Papa Francesco? Ma si sono incontrati di recente in un'udienza privata, e Don Carron, in seguito a questo, ha scritto poi una lettera a tutto il movimento invitando tutti a seguire Papa Francesco proprio come segno della volontà di partecipare integralmente alla vita della Chiesa. E in questo ha sottolineato questa preoccupazione che il Papa gli ha manifestato di concentrarsi sull'essenziale, perché oggi siamo come ai tempi evangelici, di fronte a una povertà umana che ci riguarda tutti e di fronte alla quale non c'è discorso, programma, organizzazione che può ridestare l'io. L'io si ridesta come 2000 anni fa attraverso un incontro che fa vedere, sorprendere per la bellezza dell'esperienza cristiana. Nel tempo Comunione e Liberazione è sempre di più diventato un movimento con molta inclinazione verso il potere e gli affari. Cosa direbbe oggi Don Giussani? Direbbe che questa non è la natura dell'esperienza di Comunione e Liberazione, ma lo ha detto fin dagli anni 70-80 richiamandoci di continuo all'identificare l'esperienza cristiana con l'esperienza di una riuscita, di qualunque tipo essa fosse, nel mondo sociale, economico, politico e del potere, e richiamando che Comunione e Liberazione è nata solo ed esclusivamente per dire che oggi si può vivere l'esperienza cristiana dentro qualunque circostanza. Ogni altra attenzione che non sia legata a questo scopo è in qualche modo un tradimento della natura originale del movimento, come d'altra parte nella lettera a Repubblica del 1 maggio 2005 Don Carron, in un momento in cui il movimento era molto esposto per vicende politico e giudiziarie, certo, non ha avuto vergogna a dire a tutti che cosa abbiamo fatto del carisma di Don Giussani se oggi identifichiamo l'esperienza del movimento con una riuscita, di qualunque natura essa fosse. Ha richiamato alla natura originale dell'esperienza cristiana vissuta nel movimento, che è la testimonianza che di Cristo e della fede si può vivere. Per questo liberi da tutti e liberi anche nella possibilità di riconoscere i propri errori, proprio perché brilli di più l'originalità dell'esperienza cristiana. Ringrazio Rachele Bonanni, Pietro Gentile, Manuel Guerrini, Antonella Migliaccio in redazione, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. A domani.